Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'Europa, lo abbiamo detto più volte a Radio 24, è alle prese con uno dei passaggi più critici da quando il faticoso processo di integrazione è stato messo in moto. Sotto la spinta della crisi dei rifugiati, del terrorismo e della crisi economica, riemergono spinte nazionaliste e xenofobe. Sul piano strettamente economico, da più parti si comincia a mettere in discussione l'impianto stesso di regole e parametri che regola appunto l'attuale disciplina di bilancio europea, a partire dai famosi parametri sul debito e sul deficit che risalgono, lo ricordiamo, al 1992, anche se poi negli anni sono stati variamente interpretati e applicati. Debito al 60% del PIL, deficit al 3%. Tetti che sembrano aver perso oggi forza ed efficacia. È una strada percorribile? Intanto ora ricordiamo insieme quel che venne deciso nel 1992 nella cittadina olandese di Maastricht. Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993, è l'atto fondativo dell'Unione Europea. Ratificato dagli allora 12 paesi della Comunità Europea, specifica i criteri politici ed economici per poter aderire all'Unione. Fin dall'inizio degli anni Ottanta prese gradualmente piede l'idea di una maggiore integrazione sul piano politico, capace di andare oltre i trattati di Roma del 1957. I cosiddetti parametri di Maastricht sono un insieme di regole riguardanti il bilancio pubblico e il regime di cambio fissate dal trattato. In primo luogo si stabilì che i tassi di interesse di lungo periodo si attestassero attorno al 2% e che la differenza tra la propria inflazione e la più bassa tra quelle degli altri stati aderenti non fosse superiore all'1,5%. La convergenza dei futuri stati membri su questi aspetti avrebbe contribuito alla stabilità monetaria durante il processo di transizione. Per garantire la stabilità della futura zona euro, i parametri di Maastricht stabilivano inoltre regole addizionali per il bilancio pubblico. Mantenere il rapporto tra il debito pubblico e il PIL sotto il 60% e il rapporto tra il deficit pubblico e il PIL sotto il 3%. In aggiunta agli accordi di Maastricht, nel 97 venne approvato il patto di stabilità e crescita, con la possibilità di introdurre sanzioni per i paesi non in linea con i parametri relativi al bilancio pubblico. Poi, nel pieno della crisi, nel 2012 il nuovo trattato, noto come Fiscal Compact, ha introdotto per i paesi aderenti l'obbligo del pareggio di bilancio e per tutti i paesi con un debito pubblico maggiore del 60% del PIL, un piano di rientro sotto questa soglia. Inoltre, sono state rese automatiche le sanzioni previste dal patto di stabilità e crescita. Il 17 ottobre del 2002, l'allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi, rilasciò un'intervista a Le Monde. Ecco cosa disse. Il patto di stabilità dell'Unione europea è stupido, come tutte le decisioni rigide, ma necessario. Il patto è imperfetto, è vero, perché bisogna avere uno strumento più intelligente e con maggiore flessibilità. Ma sapete bene che se vogliamo flessibilità e intelligenza, serve autorità. E nessuno ce l'ha. Questo è il problema. Bisogna avere l'unanimità e questo non funziona. Non possiamo avere un'Europa florida, forte, in crescita, senza poter aggiustare le sue decisioni in ogni momento. Abbiamo in linea l'economista Alberto Quadrio Curzio. Buonasera, professore. Come sta? Bene, grazie. Grazie per l'invito. Presidente dell'Accademia dell'INCEI, economista, editorialista del Sole 24 Ore e tante altre cose. Allora, professore, commentiamo insieme questa tematica relativa alla revisione dei cosiddetti parametri di Maastricht. Secondo lei è il caso di rivederli? Io credo di sì, ma al di là della revisione dei parametri si tratta di dotare l'Unione Economica e Monetaria, a questa mi riferirò di qui innanzi, di una strumentazione adeguata a quella che dovrebbe configurarsi come una confederazione, il che non significa evidentemente condividere le sovranità in tutti i campi, ma avere almeno degli strumenti la cui funzionalità sia coerente al funzionamento di un'area monetaria unificata e che quindi consenta di gestire la politica economica in relazione agli andamenti ciclici dell'area stessa, fermo restando che poi per una parte la gestione della politica economica dovrebbe comunque rimanere in capo agli Stati membri. Quindi rivedere sì i parametri, ma completare l'Unione Economica e Monetaria con alcuni strumenti che oggi non ha e che tutte le confederazioni hanno sempre avuto. Certo, sono due elementi che camminano insieme, possiamo dire. E in effetti poi non sembra avere molto senso mantenere un parametro come quello del debito formalmente al 60% quando poi sappiamo che gran parte dei paesi europei non lo rispettano, e quindi forse è il caso di metterci mano. Però poi bisogna rivedere i trattati, un percorso un po' lungo, professore. Dal punto di vista formale è un percorso lungo, ma non è un percorso impossibile, anche perché a me non sembra che i parametri stessi implichino una applicazione rigida come quella che si tende a dare ad oggi nella interpretazione. Per esempio, lei ha detto giustamente che il rapporto debito su PIL non è al 60%, non lo è mai stato in media, oggi sia intorno al 90%, e sarebbe molto più logico stabilire una regola di un rapporto debito su PIL di natura mobile, quindi che consenta delle deviazioni dalla media sufficientemente contenute, ma non rigide. Lo stesso dicasi per il deficit su PIL. Ora, il problema è che ogni deficit su PIL deve essere distinto in due componenti: i deficit generati da spesa di investimenti che danno poi reddito a venire, e i deficit generati da spesa corrente che invece sono non produttivi di ritorni reddituali. Quindi queste due distinzioni, una configurazione di debito su PIL dentro una media che sia per esempio una media triennale o quinquennale con delle bande di oscillazione da un lato, e la distinzione di due componenti dei deficit su PIL. Io credo che questo si potrebbe fare anche con un trattato internazionale, così come si è fatto per il fiscal compact, che non è stato inserito nei trattati ma solo richiamato, ed è invece regolato da un trattato internazionale. Certo, e poi c'è un elemento che si tende a sottovalutare, che lei, professore, nei suoi editoriali sul Sole 24 Ore ricorda spesso, che poiché si tratta di un rapporto tra numeratore e denominatore, per ridurre il debito e il deficit basterebbe crescere un po' di più, e questo è l'elemento di fondo di tutta la faccenda. Certo, questo è l'elemento cruciale al quale va aggiunto l'elemento che almeno una parte dei debiti pubblici e una parte della politica degli investimenti della Unione deve essere della Unione, non deve essere tutto in capo o quasi tutto in capo agli Stati membri. Il piano Juncker, che avrebbe dovuto avere un carattere rivoluzionario, è un modesto piano che difficilmente genererà investimenti per 300 miliardi in 3 anni, in 6 anni, non lo si sa ancora. Quando noi sappiamo che la carenza di investimenti su base annuale oggi in Europa rispetto alla dinamica pre-crisi, su base annuale oggi è di circa 350 miliardi annui, e non triennali o quinquennali o ancora di più. Quindi secondo me noi stiamo riflettendo troppo sulla cosiddetta unione politica e ci siamo dimenticati che nella concezione iniziale dei padri fondatori vi erano due caratterizzazioni possibili a seconda dei momenti storici: la connotazione federalista, che ha una forte connotazione politica, la connotazione funzionalista, che invece è una connotazione più finalizzata a raggiungere degli scopi specifici. Jean Monnet diceva: creare soprattutto una solidarietà di fatto per basi comuni di sviluppo economico. La BEI nacque così, e la BEI è uno dei grandissimi successi dell'Unione Europea. Quindi secondo me oggi come oggi basterebbe utilizzare il cosiddetto fondo salva stati come strumento per avere in comune una parte dei debiti pubblici e come strumento per finanziare investimenti infrastrutturali europei. Sarebbe una scelta fondamentalista potentissima che potrebbe cambiare veramente il destino dell'Unione Economica e Monetaria. Va bene, grazie professore. Grazie a lei. Buona serata. Arrivederla, grazie.